Ti ho detto che verrà, domani sarà come è già stato ieri. Tutto passa, tutto sempre passerà. La vita come un'onda, come il mare. Che poi vedremo è diverso da ciò che abbiamo visto ieri. Tutto cambia, il tempo, tutto nel mondo. Non serve a niente fuggire né mentire a se stesso, amore. Se hai ancora un posto nel cuore, mi ci tuffo dentro come fa un'onda nel mare.